del trolley. Salgo su un altro treno, scendo da un altro aereo. 4 giorni di sonno in meno, 5 grammi nei boxer. Perché senza frate non vivo, metto un'altra firma in corsivo. Ormai neanche chiedo il motivo, questa qua mi manda i messaggi, chiede perché non la chiamo, chiede oggi dove andiamo. Salgo sul furgone, ne giro una, abbasso gli occhiali da sole, accendo e le rispondo lontano. Sei uno stronzo, hai detto bene. 100 tonne, 100 iene, sposato con l'alba, andiamo sempre a letto insieme. Lei mi spreme il cuore come un mandarino, poi ci voli il cuore fra mi mangia vivo. Fumo e guarda fuori mentre fa mattino, con la merda in testa già da bambino. Fino a quando mamma mi diceva Davide mi raccomando non t'allontanare dal passeggino. Fino adesso che regge i miei dischi in mano e mi vede poco perché sto sempre suonando in giro. Da Milano a Londra fino a Berlino. Globetrotter, flow clocker, sul palco e cado come col popper. Mi lancio ubriaco, marcio Joe Cocker. Ho la testa sulle spalle, ai piedi nel Red Challenge, sotto ai piedi il red carpet. Domani a che ora si parte? Sveglia presto, giornata grigia, non si fa da sola la valigia. Un bagaglio per racchiudere la mia vita, è una strada sempre in salita. Sono sempre in giro, sono sempre in giro, sono sempre in giro, casa non la vedo mai. Sono sempre in giro, sono sempre in giro, sono sempre in giro, sono sempre in giro. Apro gli occhi, mi alzo per suonare, accendo sto mezzo personale. Sto in hotel ma non so quale, sì lo so sto messo male. Che sia giorno o sera collasso, sempre a spasso pendolare. In un lasso spazio temporale, non male. Da dopo che ho fatto un millino, ogni tipa che mi filo manda un filmino. Come se fossi ricco da bere un villino, in giardino con i pantaloni di lino. Solo perché faccio dei soldi anche se non spaccio, non mi vesto da pagliaccio pinguino. Più pe così fighe che faresti l'inchino. Lei mi chiede perché da giorni che non la calcolo, le rispondo chiediti come mai sono scapolo. Per trovarne una come lei non mi basta una vita, ho una seduta a spiriti che torna a tavolo. Perciò non ho più una rubrica ma c'ho catalogo. Riempio il trolley, backpack, hangover, jet lag. Ora vedo i posti non sono in JPEG. Ci sentiamo al volo perché sono J-Check. Ma Molotel non è quello economico, ristorante ogni sera più atomico. Anche se non mi incanto per così poco, perché tanto la cena la vomito. Ora soffro di stress patologico, questa pensa che stasera ha fatto una conquista. Io che dimentico tutto come un alcolista, so solo che libero una camera con vista. Sveglia presto, giornata grigia, non si fa da sola la valigia. Un bagaglio per racchiudere la mia vita, è una strada sempre in salita. Sono sempre in giro, sono sempre in giro, sono sempre in giro, casa non la vedo mai. Sono sempre in giro, sono sempre in giro, sono sempre in giro, sono sempre in giro. Tutti questi rapper sopra i miei genitali, perché sono matto come Madman e spacco come Jamie Tite. Vuoi impiccarmi come Saddam, ma frate non ci arrivi mai. Sto in un bagno turco Hammam, coi diamanti di Dubai. C'ho più timbri sul passaporto, c'ho cubani e litri di porto. Per te c'ho una cassa da morto, perché fai poco ma parli molto. Frate arrivo da lontano, dalle panche di Milano. Alla business class, fanculo il pass, ora che ho il mondo in mano. Ed è tanta roba che assumo, con i miei fra dal giorno uno. Guarda le mie tipe su Google e poi mandami a fanculo. LA NYC, tu fra non sei qui. Barcelona, Paris, frate sei la vie. Te ne vai o no, tu c'hai zero flow. Noi col vero gold, te ne vai sì o no. Te ne vai o no, sto su un range e walk 9mm Glock, te ne vai sì o no. Sveglia presto, giornata grigia, non si fa da sola la valigia. Un bagaglio per racchiudere la mia vita, è una strada sempre in salita. Sono sempre in giro, sono sempre in giro, sono sempre in giro, casa non la vedo mai. Sono sempre in giro, sono sempre in giro, sono sempre in giro.